Del professor Carlo Frankovic, il Movimento Democratico in Italia, dal congresso di Vienna alla Repubblica Romana. Non credo ci sia bisogno di presentare il professor Frankovic, i suoi lavori sull'argomento e su questo Movimento Democratico Giacobino fanno ormai parte, va bene, vero, della storiografia conosciuta e importante, per cui passo direttamente la parola a Nico Frankovic, lo prego di iniziare il suo referato. Allora, io dirò e prego il Presidente di togliermi la parola quando sarò troppo prolisso e troppo lungo, e comincerò dicendo che una unità politica, un'unità culturale italiana, gli italiani si sentivano come un paese unito, direi almeno a livello della cultura, fino dai tempi di Dante si parla di una unità italiana, ma di una unità politica italiana. Di quella si incomincia a parlare soltanto ai tempi del movimento giacobino italiano. Quando scoppia la Rivoluzione francese, in ogni città italiana ci sono dei piccoli gruppi, delle minoranze, dei nuclei, per lo più di intellettuali che vivono ai margini della società, i quali accettano in pieno l'idea della Rivoluzione francese. Un esempio è un discendente di Michelangelo Buonarroti, Filippo Buonarroti, il quale dirà, quando scoppia la Rivoluzione francese, la mia patria non è la Toscana, dove c'è un granduca, dove c'è un tiranno, anche se tiranno non era magari, la mia patria non è la Toscana, la mia patria è la Francia, dove si proclamano gli ideali di Rousseau, dove si proclamano gli ideali di Diderot, di D'Alembert. E questo è un po' dappertutto. Nuclei di intellettuali, nuclei di frustrati, qualche volta anche nuclei di avventurieri. E io direi che questo è, e c'ho il conforto di Benedetto Croce, che non è un fazioso come me, ma un liberale, di Benedetto Croce, il quale dice i primi martiri del risorgimento italiano sono i giacobini napoletani che vengono impiccati nel 1794. Sono i primi martiri che si trovano a Napoli e che si trovano a Bologna in questo periodo. Ma una maggiore coscienza di un'unità politica italiana si ha nel 1794 a Oneglia, quando intorno a Filippo Buonarroti, che nel frattempo era andato in Corsica, poi era diventato un amico intimo di Robespierre, poi mandato come commissario in questo paese della Liguria, Oneglia, dove lui rappresenta il governo francese. Intorno a Buonarroti si raccolgono gli amici, i giacobini piemontesi che devono scappare perché perseguitati dal governo, i giacobini napoletani. E lì è già un embrione di un'Italia e lì si incomincia a pensare alla unità italiana. Piemontesi, napoletani, un toscano nel mezzo che coordina tutto questo. Nel 1796 però il Buonarroti si reca a Parigi, è richiamato a Parigi, viene arrestato perché amico di Robespierre, c'è già stato Termidoro, c'è già stata la reazione direttoriale. E nella prigione del Plessis, Buonarroti entra in contatto con un altro grande rivoluzionario che è Gracco Babeuf. E è strano questo incontro, però i due uomini si trovano subito d'accordo. Si trovano subito d'accordo perché partono da esperienze comuni. Babeuf viene dalla Piccardia, Buonarroti viene da un soggiorno lungo in Corsica, dove c'è la piccola proprietà, il contadino piccolo proprietario, come pare che fosse anche in Piccardia. E questi uomini si trovano d'accordo e nasce la teoria babuvista. Buonarroti, che fino a quel momento era per l'idea della legge agraria, della romana memoria dei Gracchi, rendere gli uomini uguali spartendo fra loro la terra, nel Plessis, discutendo con Babeuf, arriva a una concezione più moderna che ha molto interessato i sovietici, Lenin soprattutto l'ha studiato, il libro che Buonarroti scrisse su Babeuf, in cui non si parla più di spartizione della terra, ma si parla della comunione dei beni. Non dividere la terra, perché la terra poi finirebbe per cadere nella mano del più ricco, dividere i prodotti e poi distribuirli in maniera uguale. Questa è l'evoluzione del Buonarroti. Buonarroti sarà quello che nel 1828 ci darà la storia della cospirazione di Babeuf, un testo fondamentale. Il grande rivoluzionario francese, anarchiste chiamiamolo pure, Blanqui, metterà il libro della cospirazione nella tomba di Buonarroti, dopo aver seguito il suo funerale. Ma più concretamente, di unità italiana si parlerà nel 1799, quando la reazione austro-russa, Suvorov, invaderà l'Italia settentrionale e i giacobini italiani, quelli che non vengono presi e ammazzati a Napoli, saranno 120 gli impiccati, si ritrovano in Francia e in Francia prendono contatto con i sopravvissuti del giacobinismo francese, con gli ex montagnardi. Prendono contatto con questa gente e arrivano a questa conclusione. Gli ex montagnardi dicono agli italiani: guardate, la rivoluzione in Francia è già terminata. Siamo già in una fase di riflusso. La rivoluzione potrà ricominciare in Italia, semmai. E cerchiamo di unire i nostri sforzi. Ed ecco l'unione fra giacobini italiani e giacobini e sopravvissuti giacobini francesi. Fra questi c'è un personaggio molto importante, Pierre-Joseph Briot. Questo parla, è un deputato della Camera dei 500, e questo dichiara alla Camera: bisogna creare un'Italia unita, bisogna creare una Repubblica Italiana unita, una Repubblica sorella, sotto l'influenza naturalmente degli italiani. E la grande illusione di questa gente è questo: come opporsi al ritorno degli austriaci, come opporsi ai ladronecci della Francia, creare un'Italia unita per tenere testa agli uni agli altri. Generosa illusione. Scusami, sono stato troppo lungo. No, tutto bene. Herr Frankovic hat begonnen mit der Feststellung, dass die Ersten, die überhaupt von einer politischen Einheit Italiens gesprochen haben, die italienischen Jakobiner waren. Es gibt wohl seit Dante die kulturelle Einheit, es wird Italien berufen bei Dante, bei Petrarca und so weiter, aber erst die italienischen Jakobiner sind die ersten, die den Gedanken einer politischen Einheit der italienischen Nation gefasst haben. Die italienischen Jakobiner, die es in den verschiedensten Gebieten Italiens in kleinen Gruppen gegeben hat, teilweise Abenteurer, teilweise Idealisten, Kämpfer, darunter einer der wichtigsten, Filippo Buonarroti, ein entfernter Nachkomme von Michelangelo Buonarroti, der die Ideen von Rousseau, Diderot, d'Alembert aufgegriffen hatte. Croce sagt von diesen kleinen Gruppen, die ersten Märtyrer der italienischen Einheit sind die Jakobiner gewesen. Eine Gruppe wird besonders bedeutend, eben die Gruppe, die sich um Filippo Buonarroti schart. Filippo Buonarroti, der in Paris Kontakt mit Robespierre hatte, der von ihm nach Ligurien geschickt wurde, in dem ligurischen Ort Onelia, wo nun um diesen Toskaner sich piemontesische, Radicati di Passerano und andere Jakobiner und napoletanische Jakobiner, die aus Neapel geflohen waren, wo eine Jakobinerverfolgung eingesetzt hatte, sich jetzt um diesen Toskaner hier scharen. Es ist die erste Zusammenarbeit im Gedanken eines italienischen Jakobinismus. 1796 geht Buonarroti nach Paris, inzwischen ist Robespierre gestürzt. Buonarroti wird eingesperrt, lernt im Gefängnis, lernt er Babeuf, Gracchus Babeuf, den Mann der Verschwörung dergleichen, und die Theorie der Babeuvianer, die Theorie Babeufs kennen. Jene frühe Theorie, für die sich auch Lenin interessiert hat, die von dem ersten Konzept einer Herstellung der Gleichheit durch Aufteilung des Bodens abgegangen ist zur Verteilung der Produkte, weil bei der gleichen Aufteilung des Bodens dann doch wieder die Ungleichheit entsteht. Derselbe Buonarroti hat dann 1828, also mehr als 30 Jahre später, eine Geschichte der Verschwörung Babeufs geschrieben, und der französische Revolutionär Blanqui hat seine Geschichte der Verschwörung Babeufs Buonarroti ins Grab mitgegeben. Doch kehren wir jetzt zurück zur Situation der 90er Jahre nach der Reaktion, nach der Rückkehr der Österreicher und zusammen auch der Russen nach Italien von 1799 sind es die Ex-Jakobiner, die aus Italien in den einzelnen Ländern vertrieben, nach Frankreich gehen, dort mit den früheren Jakobinern, echten Jakobinern zusammenkommen, denn inzwischen ist ja längst, schon vorher, seit 96 ja, doch die direktoriale Reaktion hat dort eingesetzt, und die französischen Ex-Jakobiner, die Ex-Montagnards von der Bergpartei sagen den Italienern, nun ist die Revolution in Frankreich ist sie zu Ende, hier ist schon dagegen, die gegenrevolutionäre Bewegung, sie kann vielleicht von Italien ausgehen, hier, wir müssen uns mit diesen, wir müssen unsere Kräfte vereinigen, und es ist dann ein französischer Pierre Jacobiner, Pierre-Joseph Briot, der die Idee aufnimmt, die ihm von den italienischen Emigranten nahegelegt würde, dass man einiges Italien schaffen soll, dass man eine Schwesterrepublik schaffen muss, um sich den Österreichern und der Reaktion in den einzelnen Teilen Italiens zu widersetzen. Danke sehr. Nel 99 finisce una fase nel 1800 Napoleone riconquista l'Italia, il generale Bonaparte riconquista l'Italia. E l'Italia cade sotto il dominio napoleonico. Che cosa fanno in questo periodo i giacobini? Tra parentesi voglio dire questo, che la bandiera italiana nasce proprio nel 1797 dall'accoglienza che gli italiani, i giacobini italiani fanno ai francesi. La bandiera italiana è la bandiera francese in cui all'azzurro, al blu si sostituisce il verde. Il verde. Questo per me, almeno, che non sono un nazionalista, non è una diminuzio. Noi ai francesi abbiamo dato tanto durante il 400 e il 500 che possiamo prenderci anche qualcosa da loro in seguito. E nasce questa bandiera, quindi l'origine italiana, questo io insisto presso i colleghi tedeschi, l'origine del risorgimento italiano è un'origine democratica, è un'origine non moderata, ma è un'origine decisamente orientata a sinistra. Quando Napoleone impone il suo potere, cosa fanno questi giacobini? Entrano alcuni nella clandestinità e abbiamo società segrete come la Società dei Raggi, che dura fino al 1802-1803, che si propongono uno scopo impossibile: combattere gli austriaci, ma combattere anche i francesi, combattere su due fronti. Naturalmente è un fallimento. Una parte di questi giacobini allora rimangono su posizioni di opposizione, un'altra parte accetta il dominio napoleonico come meno peggio, e entra nell'amministrazione napoleonica. Infatti, sotto la dominazione napoleonica, l'Italia guadagna, tutto sommato, facendo un bilancio. I 12 stati del 1789 sono ridotti a 3 grandi unità statali, e questo è un miglioramento, e oltre alla differenza politica però c'è un'unificazione amministrativa e giuridica, come ci ha spiegato Ghisalberti poco tempo fa. C'è quindi questa unificazione. Una parte del giacobinismo collabora con gli altri. Altri invece, come ho detto, si oppongono. E si oppongono lavorando nelle società segrete o nascondendosi dietro la massoneria, entro la massoneria creare dei nuclei di opposizione, oppure creando qualcosa di nuovo. Nel sud nasce la carboneria, che è antifrancese in questa fase, e contro Murat, e contro il governo di Murat, ed è fondata, almeno questa è la ferma convinzione di Godchaud, ed io ne sono anch'io convinto, ed è fondata da questo Pierre-Joseph Briot, un giacobino che favoriva l'unità italiana. Caduto il dominio napoleonico, si inizia una nuova fase, ed è la fase della restaurazione. E qui proprio è il momento delle società segrete. È qui che si vede il programma delle società segrete. Nel nord nasce una società, era nata, cioè già una società, che si chiamava Adelphia, di origine francese, Les Adelphes, che ha come esponente sempre Filippo Bonarroti. Fino al 1937, 1837, tutte le cospirazioni partiranno da questo Filippo Bonarroti, che vive a Ginevra e da Ginevra dirige la opposizione. Nel sud l'opposizione è formata dalla carboneria, ma quale è il carattere della carboneria? Quale è il carattere degli Adelfi? È società segreta, che vuol dire, sull'esempio della massoneria, che però è una cosa del tutto diversa, è una società iniziatica. È la tipica mentalità, direi, settecentesca del disputismo illuminato, tout pour le peuple, rien par le peuple, cioè un piccolo gruppo che dall'alto dirige tutto. E sono iniziazioni, primo grado, secondo grado, generalmente terzo grado. Nel primo grado si sostiene il costituzionalismo, monarchia però costituzionale. Nel secondo grado repubblica, cioè quando i grandi maestri, i capi, si accorgono che l'adepto è capace di ricepire un pensiero politico più avanzato, allora lo immettono nel secondo grado e lì gli si dice: guarda, noi lottiamo per la Repubblica. Nel terzo grado, al quale sono ammessi pochi, lì si sostiene il socialismo, il comunismo. Via via è una società in questo iniziatica, cioè è il contrario di quello che vuole la democrazia, solo pochi sanno la verità e via via ammettono a questa verità solo questi, quelli che ritengono essi necessari. E così si va avanti e le cospirazioni vengono dirette in questa maniera. Vengono dirette in questa maniera, mentre naturalmente non tutto si riduce qui. C'è tutto un vasto movimento patriottico che coinvolge altri gruppi. E c'è quello che abbiamo detto oggi, il romanticismo democratico. Abbiamo un personaggio, Confalonieri, che aderisce alla Delfia, ma che nello stesso tempo costruisce una nave per andare su e giù per il Po, per unire Venezia a Milano, che mette su scuole lancasteriane, che introduce l'illuminazione a gas e fa altre. Quindi lavorano su due piani, piano moderato, culturale, piano radicale, cospirativo, rivoluzionario. Questo è il Confalonieri che svolge questa azione. 1799 sind wir stehen geblieben. 1800 erfolgt die Wiedereroberung Italiens durch Napoleon. Italien ist nun unter napoleonischer Herrschaft. Frankovic hat darauf hingewiesen, dass die italienische Nationalfahne 1797 in Reggio Emilia entstanden ist durch Übernahme der französischen Fahne, nur anstelle des Blau das Grün, man müsse das offen sagen. Er, der zwar behauptet, er sei ein parteiischer Mensch, aber der kein Nationalist ist, sagt, man könnte das offen zugeben, dass die italienische Nationalfahne von Frankreich kommt. Frankreich hat im 15. und 16. Jahrhundert so viel von Italien erhalten, dass man das als Italiener ruhig sagen kann. Er betont, dass Italien also einen jakobinischen Ursprung hat. Der Ursprung, und das ist besonders wichtig, also einen linksdemokratischen Ursprung der italienischen Nationalbewegung, nicht gemäßigt liberal, sondern eben radikal. Nun, unter der Herrschaft Napoleons gibt es für die früheren Jakobiner zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt die, wie viele getan haben, die napoleonische Herrschaft an. Die napoleonische Herrschaft, die französische Herrschaft hat gewisse Vorteile gebracht. Aus den 12 Staaten 1796 bestanden haben, werden nur drei Staaten, also auch hier eine Verminderung der Zahl der Staaten und dazu, wie Carlo Ghisalberti ja betont hat, eine administrative und politische Vereinigung und Gleichheit. Das ist der eine Teil. Ein anderer Teil geht aber in Opposition, gleichzeitig in Opposition gegen die Franzosen und gegen die Österreicher, was natürlich zur Niederlage führen muss. Diese Gruppe beschränkt sich auf die geheimen Gesellschaften, die von der Freimaurerei gewisse äußere Formen übernehmen, aber doch etwas ganz anderes sind. In Süditalien entsteht die Carboneria, antifranzösisch eben, gegen die französische Herrschaft, und einer der Begründer der Carbonerie ist nach der Ansicht des Kollegen Jacques Gauthier in Toulouse und nach der Ansicht, zu der sich auch Frankowitsch bekennt, der gleiche Priot, den wir schon kennengelernt haben. Er sei also der Begründer dieser Carboneria gewesen. Nach dem Sturz Napoleons kommt die Restauration und da bleiben nun diese geheimen Gesellschaften. Im Norden die sogenannte Adelphia, Les Adelphes, die wieder und sich um Filippo Buonarroti versammelt. Bis 1837 sind alle Verschwörungen in Italien von dem in Genf lebenden Buonarroti betrieben worden. Also im Norden die Adelphia, im Süden die Carboneria. Der Charakter dieser geheimen Gesellschaften ist, dass es eben wie gesagt nach freimaurerischem Vorbild sich um eine Gesellschaft der Initiierten handelt, die eine kleine Gesellschaft ist, die eigentlich das alte Prinzip des 18. Jahrhunderts weiterhin verfolgt, alles für das Volk, aber nicht durch das Volk, sondern durch kleine dirigierende Eliten. Und zwar ist es drei Grade. Im ersten Grad wird als Ziel dargestellt eine konstitutionelle Monarchie, wenn das Mitglied, der Eingeführte, sich schon als weiterentwickelt erweist. Folgt der zweite Grad, in dem ihm enthüllt wird, dass das eigentliche Ziel eine Republik sei, und dann der dritte Grad ist dann eine Gesellschaft, eine sozialistische oder kommunistische Gesellschaft, die auf der Gleichheit des Eigentums beruht. Es ist nun die Zeit der Verschwörungen. Wobei natürlich zu bedenken ist, dass neben diesen geheimen Gesellschaften es noch ein weiteres breites patriotisches Panorama gibt. Also ein Beispiel dafür, Confalonieri, der Graf Confalonieri, der einerseits der Adelphia angehört, andererseits aber auch eine Reihe von Reformen noch durchaus in der Tradition des aufgeklärten Absolutismus propagiert, etwa eine Schifffahrt auf den Po, um Mailand mit Venedig zu verbinden, Schulwesen, Gasbeleuchtung und ähnliche Dinge. Dieser Confalonieri, der ja einer der führenden Persönlichkeiten der Prozesse del Ventuno geworden ist. Non solo Confalonieri, ma questo movimento, come ci spiegherà il collega La Salvia, il movimento moderato trae anche qui le sue origini. C'è Manzoni che nel 1814 scrive una poesia, il Manifesto di Murat, in occasione del Manifesto di Murat, che si rivolge agli italiani per ribellarsi e per unirsi. Manzoni dirà in seguito, perché Manzoni era un uomo di vasta cultura, di vasti sentimenti, non quel piccolo uomo che ci è stato descritto dalla Natalia Ginzburg in un libro uscito in questi giorni, dove si esamina solo certi fatti della vita privata. Era una grande mente, e Manzoni, che oltretutto era un uomo di spirito, Manzoni dirà: io ho fatto prima, 20 anni prima di Mazzini, ho parlato di unità d'Italia, e per l'unità d'Italia ho fatto quello, il più grande sacrificio che può fare un poeta, cioè ho scritto un brutto verso, il famoso verso "liberi non saremo se non siamo uni", e questo è scritto nel 1814. Questo lo dico non per rubare il mestiere alla Salvia, ma per dire che a fianco di questo movimento democratico c'è naturalmente anche ben altro, c'è altri movimenti. Queste società segrete, volevo dire, e sono dirette, si crede che siano dirette da un comitato che risiede a Parigi, a Ginevra, e si chiama Gran Firmamento, ed è diretto da Buonarroti. È un comité directeur che sta a Parigi, che è invece diretto da un gruppo fra cui fa parte anche il famoso generale Lafayette. Questi cercano di prendere contatto con tutte le società segrete. Per questo Metternich ne avrà una gran paura, una paura esagerata, perché forse non avevano la forza che lui credeva. Ma il comité directeur e il Gran Firmamento tengono contatto coi rivoluzionari francesi, coi rivoluzionari tedeschi, quello che nel 1817 faranno il putsch di Wartburg, e prendono contatto attraverso proprio un patriota trentino, Gioacchino De Prati, che tiene le liaison tra Buonarroti, Snell, Follen e i patriotti francesi e anche della Grecia. C'è questo coordinamento della opposizione al regime, ai regimi restaurati, che appunto hanno questo il contatto funziona o non funziona, ma nella teoria esiste questo. E così si hanno i moti rivoluzionari. Si hanno i moti rivoluzionari del 20, si hanno i moti rivoluzionari del 21. E anche questi sono comprensibili solo se si tiene presente il gradualismo delle società segrete. C'erano varie società segrete, non vi dico i nomi, i più importanti sono Carboneria e Adelfia. E i settari cercavano di avere il controllo di tutte le società in modo da poter spingere la rivoluzione su posizioni sempre più di sinistra. Come si spiega il voltafaccia di Carlo Alberto nel 21? Come si spiega? Lui dice: sì, sono con voi rivoluzionari, faccio la rivoluzione con voi, assumo il potere, a un certo momento scappa, paura dell'Austria, certo, ma io penso è che a un certo momento si rende conto che la rivoluzione è partita monarchica, sta diventando repubblicana e chissà che cosa diventerà, e naturalmente lui come sovrano, come principe, questo non l'accede, tradisce i rivoluzionari, perché chi è crede di essere stato tradito a sua volta, e si ritira a Novara sotto il rifugio dell'esercito austriaco. E io credo anche il famoso colloquio nel 23, se non sbaglio, fra Metternich e Confalonieri parte da questo concetto. Il Confalonieri, insieme con Silvio Pellico, con Andriane, con altri tanti patriotti, viene condannato allo Spielberg. Ricordo qui che sono un esempio magnifico di comportamento. Davanti alla polizia, no, davanti all'amico Salvotti che era un serpente, che ipnotizzava e questi non riescono a mantenersi fedeli a se stessi, e quindi confessano. Salvotti dice loro: ma voi credete in Dio? E voi che Come fate a dire delle bugie? Non vi vergognate di raccontare delle bugie. E questi a un certo momento, il povero Pellico si vergogna e dicono tutto quello che sanno e glielo e spiattellano tutto che... E gente, però in prigione tengono un contegno meraviglioso. È gente che si fa rispettare per la propria dignità. Beh, mentre sono portati verso in Moravia, verso lo Spielberg, il Metternich fa distaccare Confalonieri e lo fa venire a Vienna. E a Vienna lo riceve nel salotto della questura, gli offre il tè e una conversazione. Cosa gli dirà? Probabilmente, ma qui siamo nelle congetture, probabilmente gli dice: guardi, lei è conte, io sono principe, siamo tutte e due della stessa classe sociale, lei collabora a una rivoluzione che ci butta all'aria tutti quanti, quindi lei dica tutto quello che sa, anche quello che non ha detto alla polizia lo dica a me e io penserò ad assolverlo, a farle avere la grazia imperiale. Ebbene, il Confalonieri molto dignitosamente in questo caso disse: io ho parlato davanti alla polizia, quello che ho detto, basta, io non ho più niente che fare. Allora il Metternich gli disse: arrivederci, io vado a un ballo e lei se ne va allo Spielberg, dove morirà dove si ridurrà un cencio di uomo per più di 10 anni, fino a che non verrà il nuovo imperatore. Questi sono i moti del 20 e del 21, gli stessi caratteristiche si hanno nei moti del 1831. Anche qui il moto parte dalla carboneria, parte dalle società segrete ed è un moto che vuole indipendenza e unità d'Italia. Devo fermarmi qui, comincio una nuova... Als weiteres Beispiel hat Frankovic angeführt den jungen Alessandro Manzoni, der 1814 ein Gedicht geschrieben hat, das berühmte Manifest, die berühmte Proklamation von Gioacchino Murat, in der er zur Befreiung und Einigung Italiens aufgerufen hat, zum Gegenstand hat. Er hat später gesagt, er habe schon lange Jahrzehnte vor Mazzini der Sache des einigen Italiens das größte Opfer gebracht, das ein Dichter bringen könnte, nämlich er habe einen schlechten Vers geschrieben, liberi non sarem, finché non siamo uni, wir werden nicht frei sein, bevor wir nicht vereint sind. Nun, hier beiseite hat Frankovic gesagt, dass eben Manzoni ein viel größerer Mann war als in etwa das jüngste soeben erschienene Buch von Natalia Ginzburg, das sich auf kleine personelle Dinge konzentriert darstellt. Diese verschiedenen Gruppen der geheimen Gesellschaften, die haben eine gemeinsame Führung. Man hat davon gesprochen, von der Möglichkeit eines Komitats in Genf unter der Führung von Buonarroti, aber in Wirklichkeit also diesem Comitato, dem man den Namen Gran Firmamento, das große Firmament gegeben hat, sei in Wirklichkeit ein Komitee-Direkteur in Paris gewesen, dem auch der alte Lafayette noch angehört hat, die auch Verbindungen etwa zu der deutschen Burschenschaft, Warburgfest und so weiter gehabt haben, wobei interessant ist, dass der Verbindungsmann ein Trentiner, Gioacchino de Prati, gewesen ist, der Verbindung mit Fohlen und Schnell und andererseits mit der griechischen Freiheitsbewegung gehabt hat. Nun kommen wir zu den Revolutionen des Jahres 1820-21 in Neapel und Piemont und den Bewegungen im lombardo-venezianischen Königreich. Auch sie kann man nur verstehen, wenn man eben jenen Anfang zitierten Gradualismus, diese Stufenweise der konstitutionellen Monarchie über die Republik zu einem sozialistischen oder kommunistischen Utopie betrachtet. Dadurch erklärt sich auch die Schwenkung des jungen Carlo Alberto in der piemontesischen oder Turiner Revolution des Jahres 1821, so interpretiert es Frankowitsch. Carlo Alberto habe zuerst mit den Revolutionären zusammengearbeitet, bis er entdeckt hat, dass ihr letztes Ziel ja die Republik oder sogar noch eine weitere Stufe ist, und er sich also von ihnen betrogen fühlte und seinerseits nun sich berechtigt, ja verpflichtet glaubte, sich von ihnen abzuwenden und sie zu betrügen. Er geht nach Novara und zieht sich also unter den Schutz der österreichischen Truppen und der also konservativ gebliebenen piemontesischen Truppen zurück. Dann hat Frankowitsch noch über die Processi del 21, über diese Prozesse der Verschwörung im lombardo-venezianischen Königreich gesprochen, wo Silvio Pellico und die anderen, denen man Verbindungen mit dieser piemontesischen und andererseits der napoletanischen Revolution angelastet hat, verhört wurden. Diese Leute haben damals dem trentinischen Untersuchungsrichter Antonio Salvotti gegenüber, der ein sehr geschickter und er meint sogar eine Schlange gewesen sein, darauf protestiert. Freund Corsini, ich möchte also auch nicht, über diese Schlange können wir vielleicht noch diskutieren. Jedenfalls haben sie vor Salvotti weitgehende Geständnisse abgelegt, wurden verurteilt, erst zum Tod, dann begnadigt und auf dem Weg nach dem Spielberg. Und das ist nun interessant, auch das berühmte Gespräch, über dessen Inhalt wir zwar nichts Genaues wissen, dass Metternich mit dem Grafen Confalonieri in Wien abgehalten hat, wo Frankowitsch vermutet, er habe ihm gesagt, Sie gehören ja ebenso wie ich der Aristokratie an, warum kämpfen Sie da hier auf der falschen Seite, bekennen Sie mir alles, was er abgelehnt hat. Dann ist ja das Schicksal der Gefangenen von Spielberg ist ja bekannt, die erst begnadigt wurden nach dem Tod des Kaiser Franz und nach dem Regierungsantritt des Kaisers Ferdinand 1835. Dann hat Frankowitsch noch von dasselbe Spiel eigentlich wiederholt sich 1831 bei der mittelitalienischen Erhebungen in Modena, Parma und in den italienischen Legationen. Auch hier ist die treibende Kraft die Carboneria. Auch hier kommt es zu einer vorübergehenden, ganz kurzen Zusammenarbeit mit einem ehrgeizigen Prinzen, dem Herzog von Modena, der sich eben auch dann dagegen wendet, also sieht, dass das Ziel eben die Republik ist und die Unabhängigkeit Italiens. Quello che ho detto sul colloquio di Confalonieri con Metternich è una supposizione, il resto non è supposizione. I vari gradi delle società segrete sono stati scoperti negli archivi, io li ho anche pubblicati, sono stati scoperti da studiosi come Soriga, come Saitta ed altri, da cui risulta veramente questo gradualismo che poi in pratica forse non si eserciterà. Il 31 segna una svolta. Nel 31, per esempio, a Rimini c'è uno scontro fra le truppe austriache e il gruppo degli studenti davanti a Rimini, un battaglione di studenti che tengono testa agli austriaci, riescono a fermarli per un certo periodo. Molto importante, perché finora a Napoli e in Piemonte i patriotti si erano squagliati, erano scomparsi. Anche qui si sente c'è un nuovo spirito. E questo è anche l'anno in cui viene sulla scena politica Mazzini, Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini era stato carbonaro nel 1825 ed era stato arrestato nel 1830. Questo era un uomo, nonostante che Marx lo chiamasse Teopompo e lo chiamasse prete, eccetera, questo era un uomo molto concreto e probabilmente con lui Salvotti non avrebbe combinato granché. Lui stesso ci racconta che quando fu arrestato lui aveva in tasca i manifesti per le tre gloriose, per le giornate di luglio del 30, aveva la spada dentro il bastone e aveva la lista dei carbonari toscani dove lui era andato a fare propaganda. Al momento dell'arresto lui viene colto così, però la lista se la mangia, il bastone fa finta di dimenticarlo e le altre cose scompaiono dalle sue mani. Lui entra pulito in carcere. In carcere lui riesce a creare un tipo di corrispondenza con sua madre e viene informato di tutto quello che succede. Posso raccontare un aneddoto che forse non è necessario poi tradurre. Il direttore della prigione, che poi era un lontano parente di Manzoni, era entusiasta di avere tra i suoi prigionieri, tra i suoi ospiti, un uomo di cultura. Mazzini conosceva il latino, il greco, l'italiano, conosceva anche il tedesco e soprattutto francese e inglese. Beh, lui aveva delle conversazioni, fumavano. Il Mazzini, attraverso la corrispondenza di sua madre, che a sua volta era in contatto con i carbonari, con gli amici carbonari, viene informato di quello che succede nel mondo e viene informato della rivoluzione di Varsavia. E il direttore del carcere a un certo momento gli dice: ma lei, una persona così intelligente, così colta, ma come fa a fare il rivoluzionario? Tanto più che la rivoluzione è già finita, è tutto già finita, fa Mazzini, è scoppiata a Varsavia. Il direttore del carcere non lo sapeva, dice: ma che mi racconta, ma non è possibile. Il giorno dopo legge sul giornale che la rivoluzione è scoppiata e allora è convinto che Mazzini abbia rapporti col diavolo, che abbia e non vuole più, non lo invita più a prendere il caffè nella sua abitazione e lo trattiene. È un uomo che ha una concretezza, una capacità di lottare ben diversa. Questa sarà una generazione che non confesserà mai, che cercherà di, qualcheduno ci sarà che tradisce, è gente che non confessa, ma non è questo che conta. Non è il carattere dell'uomo che conta, è quello che pensa. E Mazzini la prima critica la fa alle società segrete. La società segreta non educa, la società segreta non... Mazzini vuole l'uomo libero. E allora un programma, manifesto a tutti, un programma non clandestino, non iniziatico a grado, un programma che fin dal primo giorno viene definito: indipendenza dell'Italia, libertà all'interno, libertà democratica all'interno, unità, repubblica. Questi sono i suoi principi e questi sono i principi sui quali si basa la nuova società clandestina che lui fonderà, la Giovine Italia, ma che è clandestina in Italia, non all'estero, clandestina unicamente per sfuggire alla polizia. È un superamento, è il partito politico, è già il partito politico che si sostituisce alla setta, alla società segreta. E questo lui lo farà per tutto il tempo e costruirà una filosofia su questo. Credo che il miglior saggio su Mazzini l'abbia scritto Otto Fossler, un tedesco, che è figlio di Karl Fossler, del linguista, il quale dice appunto, analizzando la filosofia di Mazzini, che è molto influenzata dalla filosofia tedesca, da Herder soprattutto, il progresso dell'umanità, l'umanità che oggi c'è da dubitarne, che marcia sempre verso principi più grandi, più aperti, verso mondo migliori, questa filosofia mazziniana nasce in funzione della sua politica. Non è che dalla filosofia, come in Marx e negli altri grandi pensatori politici, dalla teoria si passa alla pratica, è dalla pratica che nasce la sua filosofia, e lui si crea un Dio che non è il Dio dei cattolici, né il Dio dei protestanti, né nessuna, è il Dio di Mazzini, è il Dio che si esprime nell'umanità, e l'umanità si esprime attraverso le nazioni. Dio vuole che nascano le nazioni, e ogni nazione ha una missione. Ha una missione da svolgere in questo mondo, come in seno alla nazione ogni uomo ha una missione da svolgere, affidatagli da Dio. La missione dell'Italia è quella di lottare per la libertà e di insegnare la libertà anche agli altri popoli. Gli italiani non sono mai schüchtern, non sono mai, hanno sempre questa idea, il primato morale civile degli italiani, la missione degli italiani di liberare il popolo, mentre noi eravamo il paese che aveva il più grande numero di analfabeti e eravamo il paese più schiavo di tutta Europa. Però Mazzini, nonostante questo, sostiene: noi insegneremo gli altri a conquistarsi la libertà, aiuteremo i popoli a darsi la libertà. Questa è la missione affidata da Dio all'Italia. L'interprete della volontà di Dio probabilmente si sente lui, ed è lui che lotta per 50 anni. Senza questa convinzione religiosa, probabilmente Mazzini non avrebbe resistito alle sconfitte continue. Lui è sempre sconfitto. Continuamente registra momenti negativi. Pensate solo che Mazzini morirà in Italia, liberata, unificata, nel 1872, con un nome finto. Si chiamerà Mr. Smith, perché è ricercato dalla polizia. Quindi fino all'ultimo istante della sua vita quest'uomo sarà sconfitto, sarà battuto, però ha questa fede dentro, ha la fede che dietro di lui opera la volontà di Dio. In esilio, il suo incontro con Buonarroti. E qui direi la cosa si rende molto interessante. Due persone veramente oneste, tutte e due. Buonarroti viveva delle lezioni di musica e di matematica e di lingua italiana che dava, e quei pochi soldi che gli avanzavano li dava poi ai compagni esuli. Mazzini non aveva bisogno di dare lezioni, perché figlio di un professore universitario di medicina, quindi che guadagnava abbastanza bene come oggi, e riceveva un abbondante appannaggio dalla famiglia, e li spendeva tutti per la causa. Lui viveva, dormiva sulle seggiole, aveva l'unico vizio del caffè e del sigaro e del fumare, e basta, però non mangiare, non godere la vita in nessun senso. Era un monaco tutto dedito a questa causa, per questo non troppo simpatico agli italiani. Questo suo rigore morale coincideva col rigore morale però del Buonarroti, di Filippo Buonarroti, tutte e due dediti alla stessa causa, liberazione dell'Italia, e credono di poter collaborare. Credono, e nasce una prima collaborazione, ma nasce questa collaborazione nel convincimento che ognuno possa ingannare l'altro. Cioè Mazzini è convinto che questa vecchia Italia sarà assorbita da lui. Buonarroti è convinto che questo giovanotto, Mazzini non aveva ancora 30 anni, piano piano verrà accaparrato dalla sua politica interna. E così, benché abbiano programmi politici diversi, nasce una certa collaborazione. Mi fermo qui, o va? Das Wesentliche bei Mazzini ist, dass bei ihm eben er von der praktischen Zusammenarbeit sich dann zu seiner Philosophie kommt, zu seiner religiösen Philosophie. Sein Gott ist nicht der Gott der Katholiken oder einer anderen christlichen Religion, sondern es ist der von ihm geschaffene Gott, der sich durch die Nationen ausdrückt, die Nationen als Geschöpfe Gottes, und jede Nation hat eine Mission. Italien hat die Mission, der Welt die Freiheit zu bringen, die anderen zu befreien, und er ist der Prophet. Ohne diese religiöse Auffassung hätte er nicht alle Niederlagen, sein ganzes Leben hindurch hat er ja nichts als Niederlagen erlitten, überlebt. Er ist ja 1872 sogar unter einem falschen Namen gewesen, wie er gestorben ist. Also dieser ungeheure Glaube, dass er eine religiöse Mission hat, die hat ihn aufrecht erhalten. Im Exil in den 30er Jahren kommt es dann zur Begegnung mit dem alten Buonarroti. Buonarroti hat wie er ein sehr bescheidenes, mönchisches Leben geführt. Mazzini hat Geld gehabt von seinem Vater her, der Universitätsprofessor und Mediziner war und viel verdient hatte, während Buonarroti sich mit Privatstunden über Wasser hielt. Beide haben ein anspruchsloses Leben geführt und das Geld, das sie sich ersparten, ihren Gesinnungsgenossen teilweise gegeben. Es entsteht bei dieser Begegnung der Glaube an eine Zusammenarbeit, wobei allerdings jeder glaubt, dass er den anderen sozusagen benutzen kann und ihn dadurch übertölpeln kann, also besiegen könne. Der junge Mazzini glaubt, den alten Revolutionär Buonarroti nur benutzen zu können, während Buonarroti der Überzeugung ist, dass er diesen jungen, unerfahrenen Mann hier im Exil zu seinem Gehilfen machen könne. Danke. Il motto, uno dei tanti motti, dei slogan di Mazzini era appunto Dio e popolo, Dio e popolo. E il poeta mazziniano Mameli c'ha proprio una poesia che ha come ritornello: quando il popolo si desta, Dio si mette alla sua testa, la sua folgore gli dà. Quando il popolo insorge, in mezzo a questo popolo c'è Dio. Questa grande convinzione, direi quasi religiosa, negli aspetti mazziniani del risorgimento. Mazzini in quegli anni pensava anche a una guerra per bande, fare insorgere il popolo italiano, e qui si vede l'illusione di quest'uomo. Il popolo italiano era per la gran parte un popolo di analfabeti, di contadini che conoscevano soltanto il loro dialetto e non arrivavano né a leggere né a scrivere, ed erano preoccupati dai loro problemi economici. L'Italia è sempre stato un paese, fino ad ora, dove si sta cambiando, ma l'Italia è sempre stato un paese di alti e di bassi. Alcuni che raggiungono vette altissime di intellettualità è una massa popolare che non segue. E far appello al popolo per una guerra partigiana in quegli anni era completamente assurdo. La guerra partigiana riuscirà soprattutto quando questa guerra partigiana è diretta contro il prete. In quel momento la Chiesa E il papato era con l'Austria, era con i Borboni, era contro i patrioti. La guerra partigiana in Italia riuscirà anche perché negli ultimi periodi il prete era dalla parte della resistenza, se no probabilmente non sarebbe riuscito, perlomeno non col vigore che ha avuto in quest'ultimo tempo. Quindi siamo sempre nel campo della speranza, nel campo dell'utopia. E le congiure di Mazzini via via falliranno. Quale è la differenza? A un certo momento che scoppierà, che si rivelerà fra Buonarroti. Buonarroti vuole che la rivoluzione sia diretta, e qui mi pare è il contrasto del moderno comunismo, vuole diretta da una minoranza. Il partito comunista come partito di élite che dirige la rivoluzione. Una minoranza questa deve portare avanti la rivoluzione. E la verità non va detta a tutti, se no si spaventano per quello che si vuole. Quindi si deve portare avanti gradualmente la rivoluzione. Mazzini, come abbiamo detto, fino da principio bisogna dire alla gente quello che noi vogliamo fare. E sono due mondi, direi, due secoli l'un contro l'altro armato, come dirà Manzoni, cioè la mentalità del Settecento del dispotismo illuminato e la nuova mentalità che fa appello alle masse, che fa appello al popolo, anche se il popolo non risponderà. E l'altro punto che poi si vede nel concreto è che Mazzini, che Buonarroti vuole che la rivoluzione futura deve partire dalla Francia. La Francia ha già fatto due rivoluzioni. C'è un proletariato a Parigi, un proletariato delle industrie, delle fabbriche a Parigi, che è pronto a recepire queste idee estremiste, un altro proletariato a Lione, e infatti nel 1934 insorgerà, come insorgerà nel 1933 a Parigi. Si deve contare su questa gente per portare avanti una rivoluzione sociale. La speranza di Robespierre, di Babeuf. Mazzini invece dice no. L'iniziativa può partire, lui dice può, ma pensa deve nascere dall'Italia. Noi siamo il popolo più oppresso e quindi il più capace di lottare, il più capace di combattere. E un altro grande dissidio è per quanto riguarda la guida della rivoluzione. Per Buonarroti, e anche questo mi sembra ad una grande attualità, infatti lo storico Thompson inglese l'ha sottolineato, la guida della rivoluzione chi la deve prendere? Per Buonarroti una dittatura, per Mazzini dittatura sì, ma unicamente militare. Quando una parte d'Italia, una regione d'Italia sarà liberata, immediatamente elezioni libere a suffragio universale, maschile naturalmente, a suffragio universale per decidere qual è la forma di governo, come si deve portare avanti. Quindi direi un pensiero più democratico, meno autoritario del pensiero di Buonarroti, che però verrà ripreso, come dico, dal Lenin e dai storici sovietici che hanno studiato e stanno tuttora studiando non solo la rivoluzione francese in tutte le sue fasi, ma proprio il movimento di Babeuf attraverso naturalmente gli scritti di Filippo Buonarroti. Le cospirazioni, allora di qui un dissenso, Buonarroti non dà la propria collaborazione e i moti di Mazzini falliscono. Arresti, condanne a morte, Ricordiamo che il Risorgimento italiano ha un lungo martiriologio di gente che passa anni in galera, di gente che viene eliminata dai plotoni di esecuzione. Carlo Alberto, il primo rivoluzionario, quello che aveva dato vita al moto del 1821, è il primo che fucila senza pietà i cospiratori mazziniani che vengono scoperti a Genova e che vengono scoperti e catturati in Savoia, nel moto del 34. I moti, come ho detto, falliscono, non direi per colpa di Buonarroti, sarebbero falliti probabilmente lo stesso, ma comunque falliscono, perché soltanto Mazzini è presente, soltanto il gruppo della Giovine Italia. Diciamo subito che la nuova generazione dei patriotti è tutta con Mazzini. Sentono in Mazzini l'afflato romantico più attuale e sentono questa modernità del pensiero mazziniano che va verso la democrazia e verso la diffusione e la discussione libera, aperta. I moti portano Mazzini a grave crisi, la tempesta del dubbio, lui la chiama, che viene a tutti gli uomini, almeno in un momento della sua vita, e lui si domanda: ma ho sbagliato, io mando questi giovani al massacro. Un suo amico intimo, Jacopo Ruffini, di cui Mazzini era amico molto della madre, si ammazza in carcere perché è stato arrestato come mazziniano. Ma tanti giovani sono, e se sbagliassi io, e se avesse ragione Metternich, se lo Stato dell'Austria felice di una società ben regimentata, tranquilla, pacifica, fosse meglio di quello che voglio io. E questo è un momento di drammatico conflitto interno che corrisponde anche a un fatto suo personale particolare, probabilmente la rottura con la Giuditta Sidoli ed altro. Questo dubbio viene a un certo momento superato. E Mazzini dice: una mattina io mi svegliai con la chiara consapevolezza che avevo ragione, che io lottavo dalla parte della giustizia. Vi fermo qui? Sì. Però facciamo un intervento. Ich muss noch etwas nachtragen vorher, eben über Mazzini, den Marx den Teopompo genannt hat, trotzdem eine ganz bedeutende Persönlichkeit. Er war 1825 Carbonaro gewesen, dann im Jahr 1830 wurde er verhaftet. Das Entscheidende bei Mazzini ist während seiner Haft und nach seiner Haft dann vor allem die Kritik an den Geheimgesellschaften. Er ist gegen dieses Gradualismus, gegen diese drei Programme. Er ist eben aus der Sekte wird bei ihm eine politische Partei mit dem Programm eben Unabhängigkeit, Freiheit, Gleichheit und Republik. Die nach Frankowitschs Ansicht den bedeutendsten Beitrag über Mazzini hat Otto Vossler, der Sohn des bekannten Romanisten und Freunds von Benedetto Croce, Karl Vossler, geschrieben, worin er auch die Abhängigkeit Mazzinis gerade von der deutschen Philosophie, von Herder, vom Humanitätsideal Herders vor allem gehabt hat. Nun, Kern, das musste ich noch nachtragen, das hatte ich überschlagen gehabt. Das Entscheidende, worauf auch Vossler hinweist und was Frankowitsch besonders unterstreicht, ist eben dieses Gott und das Volk. Die beiden Ideale, Gott ist mit dem Volk, das Volk ist Ausdruck des göttlichen Willens. Er hat dabei unter anderem auch sogar den Bandenkrieg vertreten, etwas, was völlig illusionär und utopisch in der damaligen Zeit war, da die große Masse der Italiener damals als Analphabeten bestand, die nur ihren Dialekt kannten. Dieser große Gegensatz zwischen der höchsten Intellektualität in Italien und einer großen Masse der Ungebildeten bestimmt die Situation. Zwischen Buonarroti und Mazzini gibt es also eigentlich keine Möglichkeit der dauernden Zusammenarbeit. Buonarroti vertritt etwa den Gedanken, dass die Revolution von Frankreich ausgehen muss. Frankreich, das schon zwei Revolutionen, die von 1789 und die von 1830 durchgeführt habe und wo ein neues Proletariat, sei es in Paris, sei es in Lyon, entstanden ist, während nach Mazzinis Auffassung die Initiative von Italien ausgehen muss. Auch über die Frage der Führung sind sie verschiedener Ansicht. Buonarroti vertritt die Ansicht, dass die Diktatur die Revolution führen muss. Mazzini vertritt die Ansicht, dass die Diktatur zwar notwendig ist, aber nur militärisch, und dass sobald der Sieg errungen ist, sofort eine demokratische Wahlen, natürlich nur männliche allgemeine Wahlrecht, durchgeführt werden soll. Dieser Gegensatz zwischen Buonarroti und Mazzini trägt dazu bei zur weiteren Niederlage, zu einer sehr harten Repression. Frankovic hat daran erinnert, dass Carlo Alberto, der Mann, der im Jahr 1821 sich der Revolution zeitweise angeschlossen hatte, dann die härtesten Repressionen durchgeführt hat. Die jungen Mazzinianer 1834 füsilieren ließ. Die neue Partei der jungen Italiens ist aber eine Hoffnung für die junge Generation in Italien. Die gebildete Jugend ist für Mazzini, allerdings leidet sie unter einer furchtbaren Unterdrückung. Es gibt immer wieder Opfer, Leute, die sich im Gefängnis umbringen und so weiter. Das Ganze hat zur Folge dann auch eine schwere Krise bei Mazzini selbst, der einen Augenblick denkt, wie er sagt, die Tempesta del Dubbio, das Ungewitter des Zweifels, wenn vielleicht doch Mettlich recht hätte, wenn doch für die Menschen ein Leben, wie es in dem damaligen Biedermeier Österreich war, das Richtigere wäre. Es hängt diese Krise bei Mazzini auch mit persönlichen Dingen, mit dem Bruch mit seiner geliebten Giuditta Sidoli zusammen. Allerdings sagt er dann, dass er eines Tages eben erwacht mit der Überzeugung, er habe doch recht, er müsse seine Mission ausführen. Dopo questo, volevo dire, la dittatura del Buonarroti aveva il compito di eliminare la vecchia classe dirigente, quello che poi faranno i sovietici, eliminare la vecchia, perché la vecchia classe dirigente, se rimane in piedi, ha la possibilità di corrompere l'opinione pubblica. E allora bisogna eliminarla. Naturalmente a questo Mazzini si opponeva. Mazzini era, diciamo così, per una soluzione interclassista, non classista. Dopo la tempesta del dubbio, Metternich fa di tutto perché la Svizzera allontani il Mazzini. Preme sulle piccole comunità svizzere, sul governo svizzero, perché venga allontanato. Dopo vari tentativi, finalmente deve andarsene e se ne va in Inghilterra. 1837, contatto in Inghilterra. E questo è un momento di grande cambiamento. Salvemini diceva, Inghilterra, in un paese così concreto, anche Mazzini diventa più concreto. La lingua italiana così pomposa, ciceroniana, latina, a contatto con la lingua inglese diventa una lingua più semplice, più razionale. Lo stile di Mazzini si razionalizza. Salvemini diceva: per vedere se un filosofo vale qualcosa bisogna tradurlo in inglese, perché in inglese non si può barare, in inglese è impossibile barare. L'inglese è una lingua concreta. Mazzini deve scrivere in inglese e quindi scrive, ha un grande successo, soprattutto presso le signore che sono entusiaste di questo messia, e si potrebbe parlare per delle ore sull'attività di Mazzini in Inghilterra. Dirò solo questo. In Inghilterra... Come ammirato dalle donne. Sì, ammirato dalle donne, ma diciamo in senso castissimo, e soprattutto scuole per bambini italiani, per emigrati, svolge un'attività intensissima. Dicevo, in Inghilterra la cosa che più interessa noi è l'incontro fra Mazzini e il movimento operaio. In Inghilterra esisteva già il cartismo. In Inghilterra esistevano già le trade unions, e questo a Mazzini fa un'enorme impressione. E il convincimento che in Italia bisogna fare altrettanto. Lui una volta assiste, scrive alla madre, a un meeting di operai e rimane veramente impressionato dell'ordine e della saggezza di questi operai. Dobbiamo fare qualcosa anche in questo senso. Scrive il Giovine Italia per tutti, l'apostolato popolare diretto agli operai italiani, ed erano pochi, come dicevo, gli operai italiani che potevano leggere. Nonostante questo, il movimento operaio italiano, prima di Marx, prima di Bakunin, sarà un movimento mazziniano. I primi operai che si organizzano sotto Mazzini. L'apostolato popolare che è degli anni 40. Intanto seguono in questo periodo si susseguono continuamente moti, morti, arresti, caduti e altre cose di questo genere. Sono moti carbonari, sono moti mazziniani. Mazzini viene accusato di essere un assassino che manda i giovani alla morte mentre lui se ne sta tranquillo in Inghilterra, e anche questo amareggerà per molti anni la sua vita. E proprio da questo spirito nasce, e la Salvia mi correggerà se sbaglio, nasce il movimento, la fortuna del moderatismo, la fortuna del giobertismo. Il movimento moderato nasce proprio nel 43 come forma con il libro del Gioberti, e propone una soluzione italiana che non sia una soluzione di lotta, di guerra, di sangue e di morte. Una soluzione pacifica, federale. I principi si federano, se a capo mettiamo il Papa, mettiamo Carlo Alberto, e gli italiani otterranno una relativa libertà interna, saranno liberati dal giogo straniero e si creerà quest'Italia federata. Questo è il movimento moderato di cui parlerà certamente la Salvia, il movimento neoguelfo, che viene poi rielaborato dal Balbo e che viene rielaborato dal D'Azeglio, e che è certamente un movimento che trova l'assenso del clero. In Italia il clero conta oggi, contava infinitamente di più allora, e il clero che aderisce a questa idea porta nuova linfa al movimento liberale. A questa opinione, al gruppo moderato neoguelfo, si oppone un gruppo neoghibellino, in realtà intellettualmente molto meno valido, e sono generalmente dei letterati: il tragediografo Giovan Battista Niccolini, il romanziere Guerrazzi, il poeta satirico Giusti. Questi fanno parte di un movimento neoghibellino che vogliono la Chiesa fuori dal movimento liberale italiano. Gente, come dicevo, che vale molto meno. Il Guerrazzi, per esempio, scriveva frasi come questa: se la vita è un male, perché ci viene data? E se la vita è un bene, perché ci viene tolta? Ecco, queste sono le frasi sulle quali il Guerrazzi invitava a pensare. Dicevo, il pensiero neoguelfo parte da basi filosofiche molte più serie. E in questo stesso periodo nasce anche il federalismo democratico. Il federalismo democratico di Carlo Cattaneo, che almeno a mio avviso, è forse il movimento più intelligente. Cattaneo scrive sul Politecnico. E anche in Cattaneo quello che è tipico degli italiani di quel tempo, almeno pensiero e azione. Mazzini pensa, scrive e agisce. Il Gioberti passa 7 mesi in galera prima di diventare neoguelfo. E il Cattaneo sarà l'uomo che dirigerà l'insurrezione delle 5 giornate di Milano, l'insurrezione del 48. Il suo federalismo democratico è proprio puntato sulla parola democrazia. Lui dice: a me non importa nulla che a Milano domani comandino i piemontesi invece degli austriaci. Sostituire le monture bianche degli austriaci con le monture azzurre dei tedeschi, dei Savoia, a me non dice niente. Per me deve cambiare la democrazia. E lui vede la democrazia che cambia dal basso. Cioè il nucleo centrale è il comune, dove i cittadini, questo forse è l'esperienza svizzera, e lui ha presente anche il modello americano, il piccolo comune dove ognuno si interessa dei problemi particolari, dove si fa la scuola, dove si fa il ponte, dove si mette la fontana, e da lì il comune si allarga, si confedera, nasce la provincia, nasce lo Stato regionale. E la regione a sua volta si federa con le regioni, nasce lo Stato nazionale. Gli stati nazionali si confederano, ecco l'ultimo punto d'arrivo, Stati Uniti d'Europa. Beh, un pensiero modernissimo anche questo, di una democrazia che nasce dal basso. Perché? Perché lui giustamente avverte che la differenza fra un napoletano e un genovese è enorme. Economie diverse fra Venezia e Roma, economie diverse, tradizioni diverse. E perché buttare tutto questo all'aria? Conserviamole. Le tradizioni, l'economia, il modo di vivere, e creiamo però questa democrazia dal basso che non può essere che federalista. Sono d'accordo con Ghisalberti quando dice: certo, se l'unitarismo ha vinto vuol dire che aveva più forza per vincere, e in quel momento va più avanti la tesi certamente di Mazzini, o vogliamo addirittura la tesi dei moderati sabaudisti, eccetera. Però il pensiero di Cattaneo continuerà ed è ancora vivo, molti ancora lo studiano, lo leggono, ed è un pensiero che prolifica in Italia, che dà qualche cosa. Ci sarebbe da parlare del federalismo socialista di Giuseppe Ferrari, ma vi risparmio di questo. Sulla Costituente di Montanelli, che possiamo considerare un democratico, Montanelli che ha questa idea della Costituente, anche questo ve lo risparmio, e vorrei terminare dicendo che questo movimento democratico risorgimentale italiano culmina con la pagina poetica più bella, che è la Repubblica Romana. La Repubblica Romana del 1849, contro i quali si accaniscono gli eserciti francesi, l'esercito austriaco che agisce dietro, l'esercito borbonico da Napoli, questa che raccoglie il fiore del patriottismo italiano. Sono tutti grandi eroi, questi italiani così diversi, così... questi italiani che hanno combattuto, un'elite militare ha combattuto in tutti i campi di battaglia. Garibaldi viene dal Sud America, dalla Polonia vengono, hanno fatto le barricate in Francia, hanno combattuto in Grecia, in Spagna. Questi appena sentono, eccola il carattere dell'esule italiano, appena l'esule italiano che c'è da fare qualcosa in patria, come nell'uomo, tutti ritornano per combattere per l'Italia. E a Roma si riunisce questa elite militare che si batte formidabilmente contro l'armata del generale Oudinot, che aveva artiglierie pesanti, aveva cavallerie d'attacco, i dragoni, è veramente la pagina più bella del risorgimento democratico. Chi è a capo della Repubblica è Mazzini, chi guida i volontari è Garibaldi, che viene dal sansimonismo. Garibaldi parte da una radice sansimoniana che lui conserverà sempre. Garibaldi, sansimonista, poi mazziniano, senza rinnegare mai la sua matrice socialista, e infine Pisacane, Carlo Pisacane li combatte, che sarà il primo, diciamo, teorico di una soluzione italiana, di un socialismo italiano. E intorno a loro tutta una schiera di giovani che immola la propria vita in un modo veramente impressionante. Muore Masini e muore proprio il poeta Mameli, il giovanissimo poeta Mameli, che avrà scritto brutte poesie, ma che era un cuore che significava molto, che dava molto ai suoi. Questo è il risorgimento democratico italiano, voglio dire, e che noi italiani, almeno secondo me, non dobbiamo mai dimenticare, anche se hanno vinto poi i moderati, se ha vinto Cavour, e doveva vincere naturalmente, se ha vinto Vittorio Emanuele II, questo filone democratico continuerà a sopravvivere. In Trastevere molti popolani al posto della Madonna avevano il ritratto di Mazzini, avevano. Questo filone democratico e continua, credo, tuttora a fare qualcosa. Grazie.